La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici all'ascolto, Franco D'Assisti in studio, La rosa purpurea, l'appuntamento settimanale con il cinema qui su Radio 24. Anche in questa caldissima estate il cinema non ci lascia, non ci lascerà per tutto agosto, anzi abbiamo delle novità in cantiere, ne parleremo nel corso di questa trasmissione. Vi dico solo, vi preannuncio solo, come abbiamo anche detto nelle ultime settimane, che da lunedì staremo insieme tutti i giorni dalle 18 alle 18.30 con un nuovo programma quotidiano che si intitola Il film della mia vita e racconterà un po' tutte quelle volte in cui ci siamo o vi siete rivisti un pezzo della vostra vita in un film. Ma di questo parleremo, dico, più tardi, perché invece questo è l'appuntamento con le uscite al cinema, con le novità in DVD e con i festival che abbondano durante quest'estate. Avremo anche una ospite straordinaria come l'attrice Fanny Ardant, che abbiamo intervistato. Avremo anche Francesco Di Pace, il consigliere delegato, diciamo così, della delegazione che sceglie i film della settimana della critica di Venezia, che è stata presentata durante questa settimana. Non mancheranno le anticipazioni sul cinema americano con Trailer USA, la nostra rubrica. Questa settimana Michaela Bellisario ci parlerà di Alice in Wonderland, il nuovo film di Tim Burton che arriverà nel 2010, ma di cui è stato pubblicato il primo trailer. Ovviamente quando si muove Tim Burton c'è Johnny Depp, c'è Helena Bonham Carter, c'è tutta la famiglia al completo. Questi insomma i contenuti di una settimana in verità assai scarna sotto il profilo strettamente cinematografico, cioè delle uscite in sala. Sarà così per qualche settimana, arriva proprio il momento in cui di prodotto ce n'è poco, con buona pace di tutti quei bei discorsi che vengono fatti ogni anno sul fatto che dovrebbe esserci più prodotto durante l'estate. Prodotti forti ce ne sono, guardate quello che sta combinando Harry Potter, ne parleremo fra poco, ma ce ne sono pochi, ce n'è uno, e tutto il resto invece è davvero poco, ma non noia, tanto per parafrasare una celebre canzone, perché dei due film che escono questo weekend, Jonas Brothers Concert in 3D è un film adolescenziale dove le ragazzine soprattutto che amano la musica di questo gruppo giovanissimo potranno vedere in 3D un concerto dei loro fan, punto. Sotto il profilo, dicevo, del cinema invece è molto interessante una commedia che arriva dall'America che si intitola Baby Mama e ragiona, riflette con grande divertimento e con grandi talenti impegnati sul tema della maternità e soprattutto della maternità cosiddetta surrogata, cioè quando una donna non può avere un bambino e cerca un utero in affitto. Allora, questo è un po' il tema. Noi cominciamo ad ascoltare un piccolo frammento del trailer di Baby Mama per poi cominciare a raccontare la storia. Ho 37 anni e voglio un bambino. Così le sto tentando tutte. Ho visto un consulente per le adozioni che mi sta incoraggiando e ho iniziato da poco la procedura di inseminazione artificiale. Quindi, con un po' di fortuna, adesso potrei anche essere incinta. Ho detto troppo per il primo incontro. Quello che voleva Kate era un bambino. Non mi piace il suo utero. Le sue probabilità di concepire sono molto basse. Ed ha ottenuto. Per una madre surrogato chiediamo $100,000. Costa molto di più far nascere una persona che farla ammazzare. Tempi più lunghi. Bene, questo che avete sentito è la prima parte del trailer. Tutto ciò che succede fino a quando Kate, che avete sentito, questa manager 37enne in carriera, che non può avere figli, anche se lei lo desidera davvero, decide, fatti tutti i tentativi possibili e immaginabili, di avvalersi di questo servizio, che tra l'altro è molto costoso, appunto quello della madre surrogata. Il discorso è che la madre surrogata in questione è una ragazza, una giovane donna, Angie, di bassa estrazione sociale, sposata a un uomo molto rozzo, molto primordiale in un certo senso, infantile. Insomma, Kate mette le sue voglie di maternità nelle mani, anzi nella pancia, di una donna che è molto diversa da lei, è quasi diametralmente opposta. Sentiamo un altro passaggio del trailer. Kate, metti il tuo bambino dentro di me. Metterò il mio bambino dentro di te. Hai preso una mamma in prestito, io ne ho avute due. No, io la pago invece. Tu paghi il conto, lei fa il bambino, si chiama mamma in prestito. Non sono alimenti per una donna incinta, lui mangia quello che mangi tu e quello che ascolti tu, comunque lo ascolta anche lui. Se ascolti DMX, il bambino esce fuori. È una pazza, è come vivere con un neonato. Hai attaccato la gomma sotto al tavolino? Non lo so. Sai, molto presto vivrai sul serio con un bambino, devi farci l'abitudine. Che cos'è questa, cioccolata o pupù? È cioccolata o pupù? È cioccolata. Allora, quello che succede è questo, che Kate, che non può restare incinta, prende a curarsi da vicino della madre surrogata del suo bambino, accudendola come se fosse lei ad essere la donna appunto in gravidanza. Ne vuole modificare a tutti i costi alcuni stili di vita, cerca di controllare un po' la vita che fa, cerca di capire come potrà venire fuori questo bambino. Insomma, surroga anche la sua gravidanza, anche i sentimenti legati al suo stato di donna incinta che appunto non può arrivare perché madre natura non lo permette. Nel frattempo Kate si innamora, come in ogni commedia non poteva accadere altro, di un creatore di bevande vegetariane. Questi sono caratteri che il cinema americano sa sfornare con una fantasia straordinaria, che però pesca molto spesso da quegli strati sociali, dalla società americana, e i due progressivamente si sentono attratti l'uno all'altra, appunto Angie e Rob, ma a questo punto Angie si trova in gravi difficoltà, la mamma surrogata, perché ha un segreto che deve rivelare a Kate. E noi qui ci fermiamo ovviamente per quanto riguarda il racconto del film e cerchiamo di proseguire invece con alcune informazioni. Intanto, dicevo, tanti talenti impegnati in questa commedia che arriva qui in estate in Italia, perché il nostro mercato è fatto così, magari anche senza particolari valorizzazioni. Invece è una commedia che andrebbe spinta un po' di più. Tanti talenti perché dietro c'è uno dei nuclei vincenti dello spettacolo che gli americani amano di più, che è il Saturday Night Live, ovvero Michael McCullers, già sceneggiatore di Austin Powers, tanto per dirne una, e che qui è il regista del film, e queste due attrici impenitenti, Amy Poehler e Tina Fey, che sono due animatrici appunto di questo spettacolo televisivo che è il Saturday Night Live. In questo film in verità Tina Fey ricorda anche un pochino la Diane Keaton di Baby Boom, anche lei donna in carriera che si trova cambiata in quel caso da un'adozione, da una bambina orfana, invece qui siamo appunto con un tema sicuramente più attuale. E quindi c'è grosso talento di scrittura, grosso talento di recitazione comica e commedia. Avete sentito alcune delle battute nei trailer, insomma, molto, molto azzeccate. Un film che riesce a far ridere di un tema davvero importante e per molte donne anche drammatico in un certo senso, senza mai assumere toni di giudizio, di predica, però ci mette anche di fronte a un tema che forse è il tema centrale di questo film, cioè questa società in cui viviamo, globale, a tutte le latitudini, nella quale cerchiamo sempre, in ogni modo e in ogni caso, di deviare il corso della natura. Lo facciamo dai comportamenti quotidiani, quando cerchiamo di condizionare anche l'aria, per esempio, della nostra cantina, pur di avere il fresco tutto l'anno, quando non ci arrendiamo alle stagioni, quando non ci arrendiamo, in termini molto più gravi ovviamente, molto più drammatici per l'esistenza, al fatto che madre natura non ci permette di fare alcune cose, in questo caso di avere dei figli. Ecco, questo forse è il tema centrale, la colonna, il nocciolo sociale importante di questo film, che poi ovviamente invece ragiona in chiave di commedia. Questo film è del 2008, vi parlo di quasi un anno e mezzo fa, ha incassato 60 milioni di dollari, da noi arriva appunto in un periodo di bassa stagione cinematografica, ma può essere comunque davvero il caso di andarlo a recuperare. E allora, abbiamo parlato di Baby Mama, la prima e più importante delle due proposte cinematografiche di questo weekend. Un film che, chissà, potrà avere la possibilità di entrare nella top 10 della classifica, può anche darsi di sì, una classifica che è davvero dominata, adesso vedremo anche in che termini, dal Principe Mezzosangue, dal nuovo capitolo della saga di Harry Potter. Andiamo a dare un'occhiata a quello che succede nelle 5 posizioni di vertice, dove troviamo Coraline al quinto posto, il cartoon 3D Coraline e la Porta Magica, che ha ottenuto un lusinghiero incasso per questa parte della stagione, ormai il suo globale ammonta a più di 3 milioni di euro. Al quarto posto c'è Una notte da leoni, anche questa commedia qui ridanciana e basta, senza altre pretese, ma di grandissimo successo in America, uscita forse anche qui un po' troppo tardi da noi, Una notte da leoni, 2 milioni 700 mila euro di incasso globale. Terzo posto nel weekend scorso, La rivolta delle ex. Secondo posto per Transformer, che continua la sua cavalcata e con i 200.000 euro incassati lo scorso weekend è arrivato a oltre 7 milioni, quasi 7 milioni e mezzo di incasso globale. Allora andiamo ad ascoltare una piccola clip di Transformer. Assomigliano ai simboli che hai visto? Dove li hai presi? Gli archeologi hanno trovato questi strani marchi nelle antiche rovine di tutto il mondo. E al primo posto, dicevamo, troviamo Harry Potter. Harry Potter è uscito il mercoledì della settimana scorsa, quindi ha avuto qualche giorno in più rispetto al fatidico weekend. Ha avuto 5 giorni di circolazione. Bene, in 5 giorni ha incassato 9.263.000 euro. Che ne fanno, in oltre 900 sale italiane, il più grande incasso della storia di Harry Potter per il suo esordio e il terzo incasso di sempre nei primi 5 giorni, dopo Spider-Man 3 e I Pirati dei Caraibi 2. Questo ci fa anche pensare che i sequel molto spesso di film molto fortunati sono ancora più fortunati, e questo è il caso anche di questo Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Ascoltiamo una clip. Questo posto ha conosciuto la magia molto oscura, molto potente. La rosa purpurea. La musica dei Jonas Brothers per aprire questa seconda parte della Rosa Purpurea, perché siamo arrivati al momento in cui parlare della seconda e ultima uscita di questo weekend, un film concerto in 3D, ormai è definitivo, è chiaro, questo è stato l'anno del 3D, il 2009, dell'esplosione del 3D anche in Italia, ormai sono molte le sale attrezzate con gli occhialini per vedere in tridimensionale e chiaramente il mercato ha attirato anche una produzione specializzata in 3D, a volte anche in maniera, se vogliamo, un po' così, un po' pretestuosa. Ecco, in questo caso, per esempio, non è che ci fossero tutte le premesse e tutti i presupposti per fare un film in 3D. È un concerto di una band di grande successo internazionale che è proprio figlia della concezione di mercato globale studiato a tavolino. La Disney ha proprio solcato il terreno per questi ragazzi, facendone una band che spopola in termini appunto di popolarità fra gli adolescenti, fra le teenagers soprattutto, grazie anche ad alcuni film che sono passati anche sui canali della Disney. Insomma, è un prodotto che fa eco, anche senza quelle punte di successo e di fanatismo, a quello che è stato High School Musical, un film passato solo sulle reti satellitari della Disney, che però è diventato un cult fra i ragazzini e le ragazzine di quell'età. E da lì è nato poi un sequel e è nato un terzo film che finalmente è andato al cinema, cioè il primo caso in cui il film viene pensato prima per la TV e solo il terzo episodio, solo il terzo remake, il secondo remake, diciamo così, più che remake, un sequel vero e proprio, finisce al cinema. Cioè prima si conquista la platea attraverso il mercato televisivo e poi dopo si approda al cinema. Ecco, questo è un progetto scritto, pensato da grandi professionisti, e Jonas Brothers è un progetto così sotto il profilo musicale. Ora arriva questo Jonas Brothers, dicevo, 3D Concert Experience, un titolo lunghissimo, sembra quasi un film della Wertmüller, perché il Burning Up Tour, che nell'estate del 2008 ha visto questi tre fratelli andare in giro a suonare sui palchi di tutto il Nord America per suonare la colonna sonora di Camp Rock che loro stessi avevano suonato e interpretato, ebbene, sono arrivate in un paio di tappe di questa tournée delle troupe di operatori guidate dal regista Bruce Hendricks, che è talmente nella squadra Disney da essere anche il regista del concerto in 3D di Anna Montana, che è uscito durante questa stagione. Ebbene, è stato ripreso il concerto, ma vedendo questo film ci viene in mente che appunto non bastano alcuni effetti tridimensionali, non basta un paio di occhialini lanciati dallo schermo verso la platea per fare un film 3D, perché lo spettatore si senta dentro il 3D, che è ancora comunque una tecnologia che, per quanto sicuramente è stata perfezionata e oggi è molto molto diversa e molto molto più coinvolgente di quella degli anni 50, ebbene, rimane sempre una tecnologia nella quale difficilmente si riesce a creare davvero questo legame in cui lo spettatore si sente dentro il film. Non è questo uno di questi casi, quindi tutto è molto studiato, vediamo che questi ragazzi sanno cosa fare, il che ci inquieta anche un po', perché sono molto giovani, ma sembra che stiano sul palco da più tempo dei Rolling Stones. Manca sicuramente un po' di poesia, manca sicuramente un po' di verità. Viene fuori appunto questo prodotto perfetto sotto il profilo, diciamo così, stilistico e formale, studiato appositamente, sin dalle melodie, dalle canzoni, dagli ammiccamenti, dagli atteggiamenti, studiato appositamente per un pubblico di adolescenti. Quindi chi vuole sentirsi le canzoni dei Jonas Brothers, beh, vada e magari vedrà anche un paio di occhialini volare verso di sé. Archiviata anche la seconda pellicola tridimensionale in questo caso e ultima di queste novità del weekend, noi andiamo a giocare, cominciamo a giocare con il nostro DVD Game, come sempre vi ricordo, tutte le settimane noi vi facciamo ascoltare tre tracce di un film misterioso fino a quando voi ovviamente non scoprite di che film si tratta. Dovete rispondere per posta elettronica di quale film si tratta, l'indirizzo è la rosapurpurea@radio24.it per provare a vincere un DVD appunto di questo film. In questo caso tra l'altro giochiamo con un Blu-ray, quindi torniamo a regalare Blu-ray, che è appunto il formato ad alta definizione che pian piano si sta diffondendo, e siamo convinti che Natale 2009 sarà il Natale del Blu-ray. Probabilmente anche i prezzi delle macchine, dei lettori diminuiranno, scenderanno. Noi cominciamo ad ascoltare la prima traccia misteriosa di oggi. Io voglio un aereo che si schianta nel deserto, non un avvocato in fregola di trasgressioni. Giusto. Almeno la metà delle proposte che bocciamo contempla un detective che sorprende una moglie che si fa scopare dal vicino di casa. E tu mi dai una boiata che è anche peggio. Che ti succede, Davy? Dai, è quello russo la boiata. Se la gente potesse si guarderebbe pure la roulette russa. Scusa? Vi ricordo ancora la rosa purpurea @radio24.it. Più tardi, ancora due possibilità. Ed eccoci arrivati ora a quella che è l'ospite principale, una volta si diceva ospite d'onore, di questa puntata della Rosa Purpurea. Stiamo parlando di Fanny Ardant, che il nostro Boris Sollazzo ha incontrato recentemente durante il Festival di Taormina, quando Fanny Ardant con altre attrici francesi è venuta proprio nella splendida località siciliana per parlare di cinema, per tenere una masterclass. È stata un'occasione che qui alla Rosa Purpurea non abbiamo voluto lasciar passare, perdere, perché Fanny Ardant è davvero un'attrice importante, emblematica di un certo tipo di cinema, francese prima, europeo poi, e anche di una certa tipologia di attrice, sempre di grande classe, molto affascinante, molto sensuale. E allora ascoltiamola, Fanny Ardant, raccontarci della sua attività. Ha recentemente esordito alla regia con il film Cenere e Sangue, tra l'altro la vedremo prossimamente anche in un nuovo film al fianco di Gérard Depardieu, ma proprio la sua attività di regista è stata uno dei motori di questa intervista, dei volani, proprio capire anche con quale bagaglio Fanny Ardant sia arrivata dietro la macchina da presa. Sentiamola. Io credo che le vere influenze sono quelle che tu non sai determinarmi, che ti hanno cambiato per sempre. Io penso molto che il cinema fa cambiare il modo di guardare le cose. A causa di Hitchcock non si vede più, mai più, una lampadina che si balanza, tu dici Hitchcock, o sì, una strada così, o mi ricordo Carwai, le sue primi film, Happy Together, mi ricordo di certi piani dove le strade ormai tu le vedi secondo lui, un po' come la letteratura. Dunque penso che tutto questo cade nel fondo del bicchiere, ed è un certo modo. Io amo molto le traveling, perché amo l'idea che uno si avanza vicino vicino, ma di un modo impercettibile, perché tu vuoi ascoltare, è l'anima che vuole venire, non il corpo. Dopo aver visto quanto è difficile essere registi, si è magari pentita di qualche accidente mandato a dei registi? No, arrabbiature. No, perché stranamente, è una buona questione, perché quando ripenso a io come attrice sono stata sempre disponibile, ho sempre amato entrare nell'universo di un altro, dunque non facevo mai no, questo non voglio. Era un'opportunità di prendere quella mano per entrare in un mondo nuovo. Capricci del regista, così, vestirti così, parlare così. No, a me come attrice, dopo certi registi li ho adorati e altri no. Ma questo è un altro problema. Ho sempre sentito dall'inizio che il cinema è sempre un mondo fragile, fra i soldi e l'arte. Dunque, non cominciare a rovinarlo con delle cose che dopo che il film sarà finito te ne pentirai di avere, sai, come le grandi vacanze dai nonni. Tu vai a entrare in scuola dopo, non fare il cretino. Io ho come riferimenti degli uomini con chi ho cresciuto. Forse questa è la mia marca di fabbrica. Sono cresciuta in un mondo dove gli uomini erano straordinari e ho imparato molto dei uomini. Nonno, padre, fratelli, cugini. Dunque, le donne erano più dolce, non come me, più... dolce. Voilà. Allora, nella mia partenza vedevo gli uomini straordinari e le donne quelle per proteggerti, per dire a lei non piangere, delle cose. E dunque dopo, quando sono entrata nella vita attiva, come lei, mi sono confrontati a dover lottare. Però l'ho preso come una lotta personale. Non ho mai parlato al nome di tutte le donne, perché sapevo che ogni donna ha il suo percorso personale. E dunque non volevo mettere, sono tutti brutti, cattivi, vogliono il potere. Prenderlo prima di lamentarti. E poi vediamo dopo. E come hai detto a questo gentile ragazzo, che all'inizio per me, donne nel mio pensiero intimo, les hommes, gli uomini e le donne per me sono a pari, diversi. Però non ho mai trovato una donna superiore, un uomo inferiore, no. Perché penso che prima delle donne e gli uomini ho sempre pensato in termini di essere umani. Lei l'ha pagato nella carriera questo essere così libera? Non ho l'impressione, perché comunque ho fatto le cose che volevo. Ho fatto solo le cose che amavo. Non sono mai stata costretta a fare una cosa che non amavo. Che questo spesso parlo quando dico il grande lusso. Non sono i soldi, è la libertà. Ha ragione di dire si paga, perché qualche volta si paga, ma stranamente io non ho l'impressione di averlo pagato, perché come era la cosa più forte ero molto pronta a dire tu non avrai questo, me ne frego. La rosa purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, di nuovo insieme a parlare di cinema qui su Radio 24 e parliamo di un evento che arriverà, Festival di Venezia, ormai quasi imminente, dal 2 al 12 settembre, con tante polemiche in questo momento, dopo i tagli del FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo, il mondo dello spettacolo è in fermento, perché davvero si può stringere la cinghia ma non si può morire di fame, questo è un po' il motto, e tra una protesta e l'altra comunque Venezia, siamo quasi certi, non avrà nessun tipo di problematica, che non magari qualche manifestazione che è sempre sale della democrazia. Allora, dicevamo, Festival di Venezia, che sarà presentato tra l'altro la prossima settimana con la conferenza stampa ufficiale, ma nel frattempo la settimana della critica si è già portata avanti e ha presentato i film che vedremo appunto a Venezia. Ed è una settimana della critica molto interessante. È capitato spesso negli ultimi anni che fosse una delle cose più interessanti del festival. Noi ne parliamo con Francesco Di Pace, che è il capo della delegazione di selezionatori, cioè di coloro che tutto l'anno vanno in giro a cercare film per poterli mostrare in questa settimana organizzata, come sempre, dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani. Un saluto a Francesco Di Pace, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Francesco. Ciao a tutti, salve. Allora Francesco, partiamo subito con una settimana della critica sulla carta, che è l'unica cosa che abbiamo in mano in questo momento, molto interessante, con alcune scelte che siamo abbastanza curiosi di vedere sullo schermo, e anche con una domanda. Esiste un fil rouge, esiste una tematica che unisce i film che avete scelto? C'era una chiave nella ricerca che avete fatto? Quest'anno abbiamo trovato molti film che parlavano di situazioni di di disagio esistenziale, di disagio sociale, di disagio politico, uniti tutti poi invece da un desiderio o da un'illusione di riscatto, ecco, insomma, un po' tutti i personaggi dei vari film che andavamo via via scegliendo avevano la caratteristica appunto del tentativo di uscire fuori da certe situazioni, però ripeto, è un po' pretestuoso anche dirlo, un po' un gioco, ecco, insomma. Certo, si può fare meglio dopo, certo, tutto certo. Sommato. Ecco, allora andiamo un attimo ad analizzare. La prima cosa che mi salta all'occhio, Francesco, è che c'è tanta Europa, forse di più degli altri anni. Sì, sì, è evidente tutto questo, è una settimana abbastanza eurocentrica, ci sono film europei, diciamo per sei noni o anche forse per sette decimi se consideriamo anche quel piccolo evento speciale che organizziamo insieme alle giornate degli autori. Poi c'è un film coreano e due film iraniani, per il resto appunto si tratta di film europei. C'è venuta, voglio dire, c'è arrivata molta roba buona dall'Europa ed è un segno diciamo positivo, si vede che ci sono un po' di fermenti creativi positivi che vengono dal nostro vecchio continente, in particolare dai paesi dell'Europa del Nord, dove abbiamo trovato molti film interessanti, tanto da annoverarne tre provenienti dalla Svezia, cioè il film di apertura che è quel Metropia di Tariq Saleh, un film in concorso che è il film dello svedese Jorgen Bergmark, che è Una soluzione razionale, per finire poi all'evento speciale che è Videocracy di Eric Gandini, che è un italiano, credo anche diciamo di origine svedese, nel senso che ha un genitore svedese che poi si è trapiantato in Svezia credo all'età di 18 anni. Il suo è uno sguardo insomma abbastanza forse apparentemente distaccato sulla realtà italiana. Lui ha lavorato su questi ultimi anni per capire che cosa era successo in Italia negli ultimi anni di storia politico ma anche mediatica, e ha quindi tracciato un po' una riflessione su un'Italia trentennale in cui il potere della televisione si intreccia con il potere politico. Quindi insomma non è un film contro Berlusconi, è un film che riflette sull'Italia berlusconiana, ovviamente, e lo fa attraverso uno sguardo che va all'interno di certi meccanismi di potere, ma anche su certi meccanismi televisivi che hanno fatto il costume dell'Italia, che hanno determinato i comportamenti anche della gioventù italiana, i vari miti del Grande Fratello, le veline, i tronisti, i Fabrizio Corona e l'Ele Mora della situazione. Insomma, ci sembrava un film interessante e che appunto si poteva legare anche col nostro evento d'apertura, insomma, perché è come un'altra faccia della stessa medaglia. Siamo proprio pronti, diciamo così, a questa apertura col botto a Venezia. Mi viene in mente quello che diceva Nanni Moretti raccontando della sua partecipazione al Caimano, appunto anche le tue parole mi echeggiavano quelle, cioè non è un film contro Berlusconi, è un film che racconta che cos'è l'Italia degli anni di Berlusconi, che mi sembra una cosa assolutamente legittima, anzi doverosa. Il nostro voglio dire, la nostra lettura è stata quella. Poi credo che insomma sia anche nelle intenzioni del regista, che insomma poi avrete modo di sentire e di farvi raccontare da lui da che cosa proviene il suo, insomma, il suo lavoro, il suo desiderio, ecco. Salutiamo allora Francesco Di Pace, settimana della critica a Venezia all'inizio di settembre, ne parleremo ovviamente a tempo debito e giochiamo ancora insieme facendovi ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Questi signore e signori sono assegni. Ciascuno di questi assegni vale 5 milioni di dollari, ma manca ancora il nome del destinatario. Perché? Perché solo 5 dei nostri coraggiosi eroi li porteranno a casa. La Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere il DVD di questo film. Più tardi avremo un'ultima possibilità. Andiamo avanti con il nostro programma perché c'è un festival di cui vogliamo parlarvi ora. È la stagione dei festival. Ogni settimana ce n'è uno, anche più di uno, ovviamente, di tutte le tipologie, di tutte le grandezze. Questo è un festival giunto alla sua seconda edizione, ma che ha avuto nella sua prima edizione davvero un boom di attenzione, ascolto, stampa attenta specializzata e non, perché è un festival che parte da un'idea cardine davvero molto forte e innovativa. Si chiama Fuji Family Festival, capirete da soli dove si svolge, ma la cosa importante è che è un festival che ha come obiettivo la famiglia, cioè un target di pubblico, non un genere cinematografico, non una tipologia di cinema, ma bensì un target di pubblico, che è un target del quale ci si preoccupa sempre poco. Noi siamo in collegamento con Andrea Piersanti, che è il direttore di questo Fuji Family Festival, e che saluto. Andrea, innanzitutto un abbraccio, un saluto, e ti chiedo anche, davvero quest'idea è stata innovativa? Ciao, buongiorno. Sì, è un'idea nuova per i festival cinematografici. Nel corso degli anni, dall'invenzione straordinaria del Conte Volpi di Misura della Mostra del Cinema di Venezia in poi, i festival cinematografici sono via via andati, sono diventati sempre più autoreferenziali. Si va al festival di cinema a parlare di cinema e basta, scordandosi che il cinema non è fatto per se stesso, ma è fatto per il pubblico. L'idea di fare un festival target family cerca di restituire al pubblico il posto che merita al centro del tappeto rosso. Passiamo a parlare della parte che c'è più pertinente come trasmissione cinematografica, ovvero appunto il cinema, che è tanto, ovviamente, tanta parte del Fuji Family Festival. Ci sono parecchie anteprime anche quest'anno, ci sono film d'autore che arrivano per la prima volta in Italia proprio al Fuji Family Festival, e ci sono anche grandi nomi nella giuria, Andrea. Sì, intanto la giuria che deciderà chi assegnare il premio, l'unico premio che il festival mette in palio, il Fuji Family Festival 2009, presieduta da Alessandro Delatri. L'anno scorso c'era Pupi Avati, quest'anno la nostra scelta è caduta su Alessandro, e devo dire che Delatri ha reagito con entusiasmo alla nostra proposta e sarà qui tutto il periodo del festival insieme con la sua famiglia, la moglie e le due bambine, nonostante che in questo periodo stia girando il suo nuovo film. Fra le anteprime previste, sicuramente un punto di forza è rappresentato da Genova di Winterbottom, interpretato da Colin Firth. È diciamo una sorta di distrazione da parte di Winterbottom, che abbandona per una volta i temi sociali che di solito lo appassionano, per dedicarsi a una storia molto più intima, il dramma di una famiglia, padre e due figli, che si ritrovano a dover fare i conti di una nuova vita senza la madre che è morta in un incidente d'auto. Intenso, non necessariamente drammatico con un cattivo fine, ma anzi con un lieto fine di speranza, ambientato inaspettatamente in una città italiana, appunto a Genova. Avremo per la serata d'apertura invece uno splendido film di Nicola Berry, Les Enfants de Tintelpack, che è un ennesimo rifacimento, credo che sia il terzo, della storia del cinema, di un romanzo che si intitola Le Mosche. Una comunità di bambini si ritrova improvvisamente a doversi arrangiare da soli senza l'aiuto degli adulti. Questa trama viene ripresa anche in questo film, dove c'è uno splendido cameo di Gérard Depardieu, e con un finale che però suona più ottimistico rispetto al romanzo originale da cui è tratto. E poi non potevamo farci mancare, questa è l'estate più calda e torrida, ma anche l'estate più glaciale da molti anni, perché quest'estate è l'estate dell'anteprima di Era Glaciale 3 e noi L'alba dei dinosauri, noi non potevamo farci mancare questo film che ci è stato gentilmente concesso in anteprima dalla Fox. Tutto questo lo si deve, io qui voglio fare una, così, un ricordo, lo si deve a un uomo che è prematuramente e recentemente scomparso e al quale il mondo del cinema deve questo sorriso proprio sull'idea di festival che lui ha aperto e ha organizzato, ovvero Gianni Astré. Gianni Astré era tra l'altro un grande ascoltatore di questa trasmissione, il che mi faceva particolarmente piacere, mi rendeva particolarmente orgoglioso, e se n'è andato così, in maniera abbastanza improvvisa, qualche mese fa. Ecco, Andrea, mi sembra che sia doveroso ricordare quello che Gianni ha creato. Sì, a me è capitato di dirlo ad alcuni amici. Gianni Astré era un medico pediatra, e a pensare quello che questo medico pediatra ha fatto in questi ultimi due anni per il cinema, per il cinema italiano, verrebbe veramente da dire che il cinema ha bisogno di un medico. Lui, che non si era mai occupato di cinema prima nella sua vita, in due anni ha avuto un'intuizione formidabile. Mi ricordo che quando venne da me a propormi la direzione artistica di questo festival, io dentro di me non potevo fare a meno di pensare: no, un altro festival, no, non se ne può più. Poi mi spiegò la sua idea e capì che aveva ragione lui, che c'era bisogno di un festival dedicato al target delle famiglie, ma non soltanto per tutelare gli interessi delle famiglie, ma proprio per tutelare gli interessi del cinema, riportare il cinema a dialogare direttamente con il mondo, con il pubblico quello vero, quello che fa levitare gli incassi, il pubblico che è quello che da solo riesce a decidere il successo o meno di una pellicola, è una cosa che serve al cinema e la dimostrazione l'abbiamo avuta proprio io e Gianni quando lo accompagnai per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia 2 anni fa per parlare con gli addetti ai lavori di questa iniziativa. E trovai nell'entusiasmo che Gianni metteva nel spiegare l'iniziativa, trovammo una risposta straordinariamente positiva e pronta da parte delle major e delle grandi istituzioni del cinema italiano. Infatti eccoci qui a Fiuggi per la seconda edizione, tutti insieme, grazie a Gianni. Grazie Andrea Piersanti, direttore del Fiuggi Family Festival. Ricordo le date, comincia in questo fine settimana, si chiude praticamente al prossimo, quindi tutta la prossima settimana chi vuol trascorrere una giornata a Fiuggi può farlo appunto con questo festival. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme qui alla Rosa Purpurea, il nostro rush finale come sempre si apre con la rubrica Trailer USA che ci porta in anticipo i suoni originali dei nuovi film americani. Uscirà negli Stati Uniti il 5 marzo prossimo, il 2010. Si intitola Alice in Wonderland ed è la 18esima versione cinematografica di Alice nel Paese delle Meraviglie. Di questo ci occupiamo in questa puntata con Micaela Bellisario, che è già in collegamento con noi. Ciao Micaela! Ciao Franco! E allora, Miki, finalmente è stato diffuso il trailer di Alice in Wonderland, attesissimo rifacimento firmato Tim Burton del racconto di Lewis Carroll, ripreso nel celebre cartone di Walt Disney, ricorderete. È la stessa Disney a distribuire la pellicola, che appunto dicevamo negli Stati Uniti uscirà il 5 marzo 2010, che vede, oltre a Depp, impegnata la moglie, la bravissima Helena Bonham Carter nei panni della regina di cuori, e Anne Hathaway, la bellissima Anne Hathaway, nel ruolo della regina bianca. A interpretare il ruolo di Alice la giovanissima Mia Wasikowska. Johnny Depp è invece il cappellaio matto, ruolo straordinario per questo attore. Allora, Micaela, cosa ci dobbiamo aspettare da questo film vedendo il primo trailer? Beh, Franco, se dal trailer si capisce il film, bisogna proprio dire che come fantasy Alice nel Paese delle Meraviglie è davvero un piccolo gioiellino. Ovviamente non sorprende perché tutti i lavori di Burton, soprattutto da quando hanno preso questa chiara componente gotica, parliamo ad esempio di Sweeney Todd, La Sposa Cadavere, Il Mistero di Sleepy Hollow, comunque film lontani dai tempi di Edward Mani di Forbice, dal meraviglioso Mars Attack, diciamo i suoi film sono diventati pellicole meravigliose dal punto di vista estetico, proprio un concentrato di effetti speciali, di magia, di fantasia. E infatti la particolarità delle riprese è tutta nella lavorazione degli effetti speciali, che sono in animazione digitale, e tanto che sono stati sufficienti appena 40 giorni per effettuare le riprese dal vivo. Ora vi facciamo ascoltare il primo incontro tra Alice e il protagonista principale di tutta questa storia, ovvero il cappellaio matto. What's wrong, Alice? My parents are gone. What else is wrong, Alice? Something's broken. What's broken, Alice? Ecco, la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie in teoria dovremmo conoscerla un po' tutti. Burton comunque l'ha riproposta uguale, proprio perché è la stessa Disney a distribuire la pellicola. Forse ha un po' esasperato la parte estetica di tutti i personaggi, come dicevamo prima, e forse il carattere più riuscito è quello di Johnny Depp, che sembra divertirsi in queste trasformazioni. Infatti in alcune interviste ha raccontato di essersi impegnato molto per definire il suo personaggio leggendo il romanzo più volte. E comunque, prima del secondo trailer, in estrema sintesi la storia, tutto parte da Alice, 17enne, seduta a una festa in una casa vittoriana in Inghilterra, che a un certo punto si mette a seguire un coniglietto bianco, finisce in una buca nel bosco e approda appunto nel Paese delle Meraviglie. Sentiamo allora un altro passo del suo incontro con il cappellaio matto. You're terribly late, you know, naughty. Ha ha ha ha! E allora lo ricordiamo, manca ancora una data italiana per l'uscita di questo film, probabilmente lo troveremo in sala nell'autunno del 2010 con questo cast davvero eccezionale e tecnologie all'avanguardia. Ciao Micaela! Ciao Franco, alla prossima settimana e come sempre un saluto ai nostri ascoltatori. E allora giochiamo per l'ultima volta insieme con la terza traccia del film misterioso di oggi. Dalle mie verifiche risulta che in questo paese il suicidio è illegale. Ecco la mia opinione di avvocato. Ma quale suicidio? Scusa, questo è un gioco a premi e non è assolutamente detto che ci scappi il morto. Non me la bevo e non la berranno neanche quelli della censura e dell'FCC. Perciò, Katie, dacci un taglio. Ok, Don, allora spiegami che differenza c'è con gli inseguimenti trasmessi dai telegiornali che finiscono regolarmente con gli agenti che sparano al ricercato. Quella è informazione. No, caro, quelli sono numeri. Se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it per provare a vincere il film, appunto, di questa settimana. A questo punto noi facciamo un salto indietro di 7 giorni e come sempre vi facciamo ascoltare il film misterioso che vi avevamo proposto 7 giorni fa. Che diceva di Donald Miller? Che bisogna essere cauti. Nella recita non si deve nascondere Donald Miller, ma neanche esibirlo. Per il colore della sua pelle? Andiamo, padre. Dovrebbe essere trattato come tutti gli altri. Ah. Beh, lei stesso ha fatto oggetto il ragazzo di particolari attenzioni. Si trattava di Il Dubbio, film uscito quest'anno con la distribuzione della Disney. È un film che mette insieme un paio di attori straordinari come Philip Seymour Hoffman e Meryl Streep, tratto da una pièce teatrale di grande intensità, che tra l'altro era anche stata portata in Italia con la figura protagonista del prete protagonista, che qui è di Philip Seymour Hoffman, che a teatro da noi era stata interpretata da Stefano Accorsi. Insomma, un film sull'etica, un film sulla morale, un film anche però sullo scontro di due psicologie molto forti. Claudio Poffi è già in collegamento con noi per raccontarci un po' i contenuti del DVD. Eh sì, l'opera di Disney Buena Vista, distribuita sia in DVD che in Blu-ray alta definizione, arriva con il massimo della qualità possibile per seguire il racconto di questa preside di una scuola cattolica del Bronx, Suora Aloysius, che si insospettisce per questo presunto caso di pedofilia quando uno dei preti del corpo insegnante inizia, diciamo, a rivolgere un po' troppa attenzione alla vita di uno studente afroamericano, ma in realtà l'insegnante ha solo un approccio diverso, veramente alternativo nei confronti degli schemi tradizionali di insegnamento. L'opera è assolutamente da riscoprire in un video, massimo della qualità audio e video, sia per il DVD che per il Blu-ray, che presenta tra l'altro, offre per quanto riguarda l'audio delle tracce ad alta definizione. Come extra sono disponibili il commento audio del regista John Patrick Shelley, che è anche sceneggiatore del film, un focus sulla trasposizione dell'opera dal palcoscenico allo schermo, la realizzazione della colonna sonora e la messa insieme del cast. È stato definito la risposta europea a Twilight, presentato al Festival di Torino lo scorso novembre con grandissimo successo, un altro film di vampiri adolescenti. Lasciami entrare, ascoltiamo la clip. Che stai facendo? Niente. E tu che fai? Niente. Abiti qui? Sì, abito qui, nei cubi per arrampicarsi. Dai, sul serio, dove abiti? Accanto a te. E come fai a sapere dove abito? Te lo dico subito, non posso essere tua amica. E perché, scusa? Che vuoi dire? Deve esserci un motivo, è così e basta. Distribuisce Cecchigori questo titolo per Seo Video, che ambienta negli anni Ottanta in un piccolo centro della periferia di Stoccolma, dove c'è questo adolescente, Oscar, vessato da 3 spietati compagni di classe, che sogna di vendicarsi con inaudita violenza, una solitudine che si intreccerà con quella di una pallida e ambigua dodicenne che scoprirà essere una creatura della notte intrappolata nel corpo di una ragazzina. Un racconto vampiresco molto molto interessante, vincitore tra l'altro del Tribeca Film Festival fondato da Robert De Niro. Il DVD è di ottima qualità, c'è una notevole restituzione delle immagini dell'originale fotografia solo con qualche piccolissimo problema di compressione nelle sequenze con maggiore luminosità, presente doppia traccia in italiano e svedese in multicanale, entrambe veramente notevoli. Come extra sono disponibili scene tagliate e il trailer. E parliamo ora di un regista spagnolo noto per il suo carattere dissacrante, per il suo carattere umoristico anche dei suoi film. Stiamo parlando di Carlos Saura, perché San Paolo Audiovisivi mette in distribuzione ben tre film, di quelli meno conosciuti, del regista spagnolo. Allora Claudio, ascoltiamo prima la clip, poi raccontiamo un po' di che titoli si tratta. Per un vero cacciatore la caccia al coniglio non è interessante. È un animaletto inoffensivo che cerca solo di nascondersi. Per i deboli non c'è posto nella vita. Né per i deboli né per gli stupidi. È una legge della natura. Non lo dici sul serio? Riguardo alla caccia ha ragione Luis. Il coniglio ha ben poche possibilità di difendersi. Più possibilità di difesa il nemico, più la caccia è bella. Si combatte ad armi pari. Per questo dicono che la caccia più bella è la caccia all'uomo. Allora, i tre titoli di San Paolo Audiovisivi, tutti inediti e molto interessanti per scoprire il passato di un grandissimo regista, sono La caccia, Cria Cuervos e Mamà compie 100 anni. Sono opere realizzate a cavallo tra gli anni 60 e 70. Nella caccia seguiamo le avventure di tre amici, ex combattenti franchisti, che vanno appunto a caccia in una riserva e si ritroveranno proprio all'interno di uno scenario, di una feroce battaglia durante la guerra civile. In Mamà compie 100 anni abbiamo una fotografia, un interno di famiglia altoborghese che si riunisce per festeggiare il 100° compleanno della matriarca, una sorta di tragicommedia, e infine Cria Cuervos, un'opera anche qui drammatica, è la storia del ricordo di un'estate triste, di un'infanzia molto difficile. Ricordo che Cria Cuervos vinse a Cannes nel 1976 il premio speciale della giuria, Mamà compie 100 anni il Festival di San Sebastian nel 79 e La caccia addirittura l'Orso d'Argento nel 1966. Grazie allora Claudio Pofi, appuntamento alla prossima settimana per parlare di DVD qui alla Rosa Purpurea. A presto, un saluto. Ebbene, prima di chiudere voglio darvi l'appuntamento allora al nuovo programma. Abbiamo parlato in apertura di trasmissione da lunedì 27 luglio al 28 agosto, venerdì 28 agosto, tutti i giorni, da lunedì al venerdì appunto, dalle 18 alle 18.30 in diretta qui su Radio 24. Il programma si intitola Il film della mia vita. Perché? Perché parla sì del cinema, ma soprattutto di noi nel cinema, di tutte quelle volte in cui abbiamo rivisto un pezzo del nostro percorso di vita, una persona che abbiamo conosciuto, una situazione che abbiamo vissuto dentro un film. Ogni giorno un tema, un film emblematico di quella situazione, di quell'emozione e un ospite. Vi dico solo i primi ospiti che avremo, le prime tematiche che affronteremo. Lunedì parleremo di amicizia, l'amicizia ieri e oggi, come è cambiata negli anni, e avremo il massimo cantore di questo sentimento nel cinema italiano, ovvero Pupi Avati. E ancora martedì invece parleremo di quello che siamo sul lavoro, come ci trasformiamo quando siamo nel nostro ambiente di lavoro. Film emblematico in questo senso non poteva che essere Tozzi, Paolo Villaggio sarà con noi qui a Il film della mia vita. Insomma, state con noi, potrete intervenire, i microfoni saranno aperti, potrete raccontarci le vostre esperienze appunto di tutte quelle volte che vi siete rivisti in un film. Il nostro indirizzo di posta elettronica è a disposizione, la rosa purpurea @radio24.it, se volete già segnalarci la vostra adesione a una di queste puntate o anche un tema nel quale vi siete rivisti in un film. È tutto per questa puntata della Rosa Purpurea, che invece torna regolarmente sabato e domenica prossima. Un saluto da Franco d'Assisi.